prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nell'ultima decina di giorni noi italiani siamo rimasti molto concentrati sulle nostre vicende di casa, anche giustamente, insomma, l'elezione del capo dello Stato, la formazione del nuovo governo. Ci mancherebbe che non ci si interessasse a queste notizie, insomma, che vanno, speriamo, verso il bene comune, verso una strada che cerchi di risolvere i problemi più urgenti. Ma proprio negli stessi giorni c'erano situazioni drammatiche, insomma. Ricordiamo l'attentato di Boston in occasione della maratona lunedì 15, ricordiamo anche il terribile sisma in Iran e in Pakistan, una città completamente rasa al suolo, tantissime vittime, diciamo tantissime perché purtroppo il conteggio in questi casi è molto difficile. La stessa Caritas italiana e la Caritas internazionale, che subito si sono attivate, non hanno ancora un conteggio preciso. Tutte le Caritas del mondo sono state attivate, sono da subito in stato di preallarme, perché la situazione è stata definita molto grave. I programmi di ricostruzione ovviamente sono già pronti, come quelli di riabilitazione e sviluppo, soprattutto nelle aree rurali dei villaggi colpiti già da precedenti terremoti. È una zona che, per quanto riguarda i nostri la nostra informazione italiana, non è molto interessante, evidentemente, così come poco interessante l'Africa. Noi cerchiamo per quanto possibile di ricordare che c'è stato questo terremoto terribile con molte vittime, il più potente terremoto, quasi 8 gradi della scala Richter, il più forte degli ultimi 50 anni. E quindi anche in questo caso l'invito è a dare qualcosa tramite la Caritas parrocchiale o la Caritas diocesana. Arrivando ad altri terremoti, quello del maggio 2012, è passato meno di un anno, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, continua celermente, qui dobbiamo dire con molto merito, la riconsegna e la realizzazione di 17 centri di comunità. Molti sono già stati consegnati nelle scorse settimane, in questi giorni ancora nel Modenese, a Budrione, a Fossa Concordia sulla Secchia e domenica 28 a Solara, sempre in provincia di Modena, ma nell'arcidiocesi di Modena non Antola, mentre le altre due località sono nella diocesi di Carpi. Nei prossimi mesi saranno consegnati altri centri in fase di realizzazione, anche con il contributo delle Caritas del Nord-Est, ma di tutta Italia, oltre che nella diocesi di Carpi, di Ferrara Comacchio, anche nella diocesi di Adera Rovigo, nostra sorella appunto nel territorio, che è stata quella colpita per quel sisma del maggio 2012. Anche su questo l'invito è non dimenticare, perché certo, il terremoto è passato, ma l'emergenza purtroppo per tante persone è rimasta, e non vogliamo che si ripeta la storia ormai di 4 anni dell'Aquila, dove tante persone hanno quasi perso la speranza di poter rientrare nelle proprie case. E tornando all'estero, torniamo in Siria per raccogliere e rilanciare l'appello del custode di Terra Santa, fra Pier Battista Pizzaballa. La custodia di Terra Santa, come sapete, non riguarda solo la città di Gerusalemme, Betlemme, ma anche diverse zone anche della Siria, Damasco, Aleppo, Latakia, Oronte. I dispensari medici dei conventi francescani sono tradizionalmente luogo di rifugio e di accoglienza. Ma siamo in un momento di totale confusione e di smarrimento. La Siria è dilaniata da scontri interni, il conflitto sembra assumere sempre più le caratteristiche di una guerra civile. I francescani, insieme a pochi altri esponenti della Chiesa Latina, sono impegnati a sostenere i bisogni della popolazione cristiana locale. La produzione agricola è in grave difficoltà, c'è l'embargo internazionale che impedisce le esportazioni, i prezzi sono crollati. Stare con la gente è il servizio più importante, accogliere e assistere chi si trova nel bisogno. Questo rimane, dice Fra Pierbattista, il senso della nostra missione francescana. Chiediamo a tutti di sostenere con un gesto concreto i numerosi cristiani siriani e le opere di carità della custodia di Terra Santa. Gli aiuti raccolti saranno consegnati tempestivamente ai frati residenti in Siria, che provvederanno a utilizzarli in modo oculato e attento. Tutti i dettagli su www.proterrasancta.org. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Per quanto riguarda invece il nostro territorio, ricordiamo che sono partiti da alcune settimane i centri di ascolto vicariali nella diocesi di Padova, 9, quelli ufficialmente partiti nei giorni scorsi a Selvazzano, a Thiene, a Maserà, San Prosdocimo, Terra Negra, Montagnana, Conselve, domenica scorsa a Teolo e in questi giorni anche ad Abano, Montegrotto e a Vigo d'Arzere. Un servizio importante, un germoglio, appunto, come è stato definito dalla stessa Caritas di Padova, un segno pasquale di risurrezione e di speranza, segno di attenzione alle diverse profonde povertà di questo nostro tempo e anche vicino alle nostre case. Per quanto riguarda le attività estive promosse dalla Caritas di Padova, ne parlavamo anche nel precedente appuntamento dell'iniziativa del viaggio in Sardegna, a Cagliari, dal 20 al 27 agosto, collaborazione tra Caritas Padova e Caritas Cagliari, ma ci sono anche altre possibilità verso l'Italia, ma non solo. Ad esempio in Romania l'iniziativa si chiama Compagni di Banco, circa 300 euro di spesa. Il riferimento è il sito della Caritas, caritaspadova.it, lì trovate tutti i dettagli. Io vi elenco semplicemente le possibilità. Un'altra iniziativa è promossa da Bocche Scucite in Palestina, bocchescucite.org, qui il contributo è intorno ai 1000 euro. E poi ancora Napoli, Scampia, a giugno, luglio e agosto, con contributo libero, iniziativa del Centro Hurtado, così come l'ho pronunciato con l'H, centrohurtado.it. A Milano lo stesso, nella Casa della Carità, con contributo libero, casadellacarita.org per ulteriori dettagli. Anche le Suore Elisabettine di Padova ospitano iniziative proposte appunto per il prossimo periodo, elisabettine.it per ulteriori dettagli. All'OPSA di Urbano in mese di giugno un'altra iniziativa, operadellaprovvidenza.it. E poi ancora diversi campi di lavoro in Italia e all'estero organizzata dalla famiglia missionaria comboniana, giovaniemissione.it, in questo caso è il sito ufficiale. A Lourdes, Cité Saint-Pierre, un'altra iniziativa di Caritas Padova e Caritas Italiana, qui basta far riferimento al settore giovani, giovani@caritaspadova.it per ulteriori dettagli. Le iniziative, come capite, sono davvero molte. Non ci sarebbe tempo per darvi i dettagli di tutti, qui facciamo solamente una rapida panoramica. Segnaliamo una serata a teatro con gli ospiti dell'accoglienza di San Carlo il prossimo 11 maggio alle 20.45 al Teatro San Carlo in via Guarneri a Padova. Molto di personale, storie di vita vissuta con ingresso libero. E sempre l'11 maggio ci sarà una raccolta straordinaria di alimenti organizzata da più catene alimentari di Padova. Sarà svolta davanti ai punti vendita aderenti. Qui si cercano volontari e gruppi disponibili per dare una mano a realizzare l'iniziativa. I riferimenti sono all'interno della newsletter, l'ultimo numero della Caritas di Padova. Il riferimento è il coordinamento gruppo pranzi di solidarietà e anche a braccia aperte. Ulteriori dettagli, informazioni, numeri di telefono su www.caritaspadova.it. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.